Conscio della mia pazzia e del caldo mentale. Indosso camicie di forza, maniche e corte. Angoscia, più non sopporto i consigli degli amici ipnotici, come i barbiturici nemici. Più devastanti degli psicofarmaci. Mi storo del fegato, aspetto l'esito delle mie analisi. Voglio sapere se sto entrando in crisi o una paralisi del lume, della ragione mia. Mi sento occulto come la magia nera. Sento nostalgia, cerco di acchiappare una chimera con le mani, che appena chiusi gli occhi mi passerà davanti. Insieme a milioni di visioni orrende è tornato pure il mio sogno ricorrente. Già, era da un po' che non si faceva vivo troppo nulla dentro il corpo mio. Sorgente naturale, in produzione il visionario canta storie strane. Poco sento, sempre spento, tento di risalire da sto buio. Voglio a vedermi così, forse ho bisogno di un psicotonico che mi annacqui il cervello. Si fa sentire dentro me, non so ancora se riuscirò a salvarmi. La mente che fa viaggi provocati dallo stress, che nelle vene mi crea visioni strane e provoca paura che non molla persistente nella mia mente. Come un sogno non esiste, è solo immaginazione. Non riesco a pensare cose buone, pessimista come sempre, non cambio mai. Ho bisogno di qualcosa per salvarmi, aiuto, chiedo agli amici. Sono in fase critica, ma se angosci non mi mollerà. Ingurgito pastiglia dalla mattina alla sera, ma non funziona con le crisi che mi vengono. E come chiunque vogliono, ma almeno non ci penso più. Mi rassegno e ci convivo, ma pazzia non muore mai, come l'amore per la gente mia. Ma ora vi lascio e vado via. Grado mentale zero, col cervello ghiacciato, sclero, psichicamente schizzato, stressato, con la pazzia che cresce nella testa e scoppia, chiuso nel mio mondo come un animale in gabbia. La realtà che mi circonda è fatta solo di visione, cerebralmente morto vivo di allucinazioni. Chiuse scatole, la soluzione drastica, è il punto di fusione del mio spirito, la scoppierà. Pronte le vene all'iniezione di scazzo, l'ultimo schizzo, dichiaratamente pazzo, perciò anche nei